sono Enrico Ruggeri e ogni giorno vi racconterò la storia di chi ha saputo mettere nella propria vita un colpo d'ala. Traiettorie ardite, eccezionali, che sapranno sorprenderci e magari anche aiutarci a volare. Il Falco e il Gabbiano, da lunedì a venerdì alle 15.30. Solo su Radio 24. Comunicare una cosa ai vostri radioascoltatori. Luciani è molto amato dai gay. Ecco qua, beccate questa, Luciani. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Sa che Cruciani ha una schiera fortissima di signorine che si intrattengono con lui ed è la cosa, ed è l'unica cosa che ti invidio. Caro Parenzo, tu ti aspetti naturalmente che oggi uno possa iniziare, che ne so, con un ospite sulla Libia, con un ospite sull'ISIS, con un ospite sulla crisi internazionale? Ebbene no, perché devo dirvi, popolo della zanzara, che io sono molto molto molto orgoglioso di uno degli argomenti, che poi è solo uno degli argomenti di cui abbiamo discettato, di cui abbiamo parlato, di cui abbiamo parlato la scorsa settimana, in particolare venerdì. Beh, caro Parenzo, abbiamo parlato soprattutto di una cosa, di un argomento di strettissima attualità, di grandissima attualità, dei rapporti tra uomo e donna, e in particolare di cosa avviene nelle camere da letto, e in particolare ancora di un elemento fondamentale, cioè dell'intimità tra uomo e donna, a partire da una ricerca, a partire da un sondaggio di un quotidiano britannico, di un centro studi, eccetera eccetera. La domanda fondamentale era questa: ma voi, quando siete in camera da letto, marito, moglie, compagno, compagna, amante, scorreggiate? Orazio da Messina. Ciao Giuseppe, buonasera. Dimmi, dimmi. A proposito di mariti che scorreggiano davanti alle mogli, io ho il problema inverso. Mia moglie che scorreggia davanti a me in qualunque momento della giornata, anche di notte mentre dorme. No, che bella relazione. La tua moglie è una cosa incredibile. Cioè, tua moglie scorreggia davanti a te in qualsiasi momento. In qualsiasi, ma anche mentre dorme. È terribile mentre dorme, cioè è veramente squallido. Cioè. Ho capito, ma anche quando scopate fa scorreggia? Ma mi piace. No, in quel caso no, almeno non ci ho fatto caso, perché nel rumore generale magari non... Mi piace la ricerca del dettaglio. Scusa, di ma me la passi un attimo? Perché il dettaglio... Sì, te la passo subito. Ma veramente canta te, Te la passo, te la passo. Sì. No, ti prego. No, come sta, adesso, signora? Buonasera. Ci state coglionando, come ti chiami? Direi. No, te lo giuro, è vero. Andiamo a Ragusa, Roberto, vai. Sì, volevo soltanto capire una cosa. Mi ha incuriosito la vostra affermazione che voi non scorreggiate di fronte alla vostra ragazza. A te succede di scorreggiare davanti alla tua moglie, scusa Roberto? Gran tema questo. Ma io penso che sia una cosa normale. Ma come è normale? Cioè, tu scorreggi davanti a... Ma sei uno zozzone, fai schifo. Ma che ambienti frequentate? Ma fai schifo, fai schifo. Tu scorreggi davanti a tua moglie. Sono io allora strano, ecco. Sono l'unico sicuro in Italia che sono. Ma che ti dice strano tua moglie quando gli scorreggi davanti, scusa? Niente. Quando le niente, così. Anche lei risponde. Prende, porta con a lo casa. Stesso risponde, risponde con un'altra scorreggia, oppure. No, sono io, devo andare da farmi controllare. Deve mangiare il carbone. No, dipende, se ti tieni, se ti trattiene, non c'è. Devo controllare perché sono una persona normale. Le grandi inchieste della Zanzara, orgogliosissimo di aver inaugurato questa inchiesta, questo nuovo filone. C'è gente che si chiede, siti vari che si chiedono, beh, non ha più nulla da dire la Zanzara, chiudetela. Abbiamo ricevuto decine di telefonate su questa roba qui, le grandi inchieste. Voi scorreggiate con il vostro compagno e io la ribadisco, la proseguo per tutta la settimana. Così i moralisti del C, puntini, puntini, puntini, poi diremo più avanti la parola completa, si zittiscono, si zittiscono. Beh, amici miei, siamo al top, siamo veramente al top. Vabbè, qualcosa di semiserio adesso. Parenzo, ci sei? Sì, ci sono. Ci sei, ho sentito. Ammutolito, naturalmente. Ammutolito, no, agghiacciato, direi, agghiacciato. Sì, non mi aspettavo questo inizio di rompente, per carità, ottimo. Anche perché sono qui all'aeroporto, che alle 21.10 partirò per Palermo. E davanti a me, buonasera, sì? Due simpatiche suorine, che anche loro sono in partenza. Beh, le suore, amico mio, amico mio, le suore. Sì. Te, adesso purtroppo adesso non ho tempo. La radio. Scusi. Può dire alle suore. Tra poco le possiamo sentire, magari adesso le... No, hanno già fatto con la mano, ma vediamo se nel corso della lunga diretta che faremo. Ma no, ma non c'è bisogno di chiedere, bisogna andare direttamente. Che chiedi? Sì. Ma non devi chiedere, ma ti devo insegnare tutto, non devi chiedere. Hai davanti due suore nella sala di attesa. Sì, nella sala di attesa dell'aeroporto di Fiumicino, devi andare lì, devi farle scappare dalla sala d'attesa. Fuggire. Ti devo insegnare tutto. Ho commesso l'errore di mettere in la voce, perché le persone che sono qui mi hanno riconosciuto e volevano sentire, e quindi non sono propense a rilasciare dichiarazioni in merito all'apertura della nostra. Ma non c'è bisogno di parlare di quello, non è necessario, puoi fare un'altra cosa, ma non devo insegnare tutto, ti devo insegnare tutto, le basi del mestiere, le basi della radio, non ne posso più. Musica. Beh, posto che abbiamo già un ospite collegato, ragazzi, qualcosa di pseudo serio. Brunetta, è tornato Brunetta, vabbè, incredibile. È tornato Brunetta che chiama bullo di periferia, anzi, rivendicando che di aver detto per primo a Renzi bullo di periferia. Ah, cosa incredibile, sentiamo. Noi non abbiamo paura di nulla, tantomeno delle rodomontate di questo bullo di periferia. Beh, questa è la citazione di un articolo di oggi, un editoriale oggi, no, di non cito Scalfari. Scalfari, veramente l'ho detto prima io. Senta, è così. Non ho dubbi che lei abbia citato queste espressioni in anticipo su Scalfari, ma non starei qui a fare chi l'ha detta prima tra lei e il fondatore di Repubblica. Scalfari l'ha detta dopo, ma non importa. L'ho detto prima io, com'è che fa, Davide? L'ho detto prima io? Io il primo, io, Renato, primo, cretino. Ho sentito un prete oggi, un prete in una chiesa, a proposito di preti e di suore, quelle che hai davanti, un prete tuonare in chiesa davanti ai fedeli, a Genova, meraviglioso, e il mitico Don Farinella, sempre ospite qui da noi ovviamente, il quale all'interno di una chiesa tuonava contro un candidato del PD alla regione Liguria, cioè la Paita, dice porteremo anche i cinesi a votare contro la Paita, Don Farinella. A queste elezioni devi andare a votare il 120%, perché ci porteremo anche i cinesi con il traduttore. Parenzo, avrai modo di sfogarti dopo su un prete che fa un comizio politico all'interno di una chiesa, ma... Io ero già pronto, ero già carico. No, dopo, perché? Se mi piace così a voi, mi piace un mondo così comunque. Perché abbiamo con noi Mario Adinolfi. Ciao Mario, direttore della CRUA, della Croce. Buonasera. Buonasera ragazzi, sento belli carichi. Ragazzi, noi possiamo non essere d'accordo con la Croce, però vogliamo che la Croce sopravviva, ecco. Lo vogliamo dire una volta per tutti. Speriamo che viva. Non solo sopravviva, ma viva. Ma venda migliaia di copie, se non milioni di copie. Beh, diventi... milioni mi sa che esageriamo. E diventi simbolo di tutti i reazionari d'Italia. Questo è importante. Sai che non siamo reazionari, ma rivoluzionari. Mario, questo no. Siamo rivoluzionari, ma è notato. Ma chi è che faceva un giornale così se non un rivoluzionario? Dai, insomma. Vabbè, rivoluzionari, Mario. Adesso rivoluzionario erano altri. Era gente che. No, rivoluzionario sarebbe portare. Ma rivoluzionario sarebbe portare. portare un preservativo su un altare e dire questo per difendervi dall'AIDS dovete fare questo, non come rivoluzione. Beh, non sarebbe... nessuno ha fatto questo del preservativo, è stato originale. No, ma sarebbe il Papa, sarebbe il Papa che a Piazza San Pietro dice: ecco la ricetta, ecco la ricetta, proteggetevi dalle malattie con questo. Ma non è la ricetta, qui non può dire una cosa che non è. Ma come no, lo sa pure lui. Dai, abbiamo parlato con mille preti dopo quello che hai detto, tutti quanti lo sanno che è uno dei modi per non contrarre malattie AIDS. Dai, su, solo tu lo dici, dai. Non riapriremo la questione, ma se volete, insomma, posso fare anche la puntata su questo. No, perché il tema continua a essere quello, che l'illusione del sesso sicuro. Ma come l'illusione? Il sesso deve essere sicuro. Mario, è inutile tornare su questa cosa, abbiamo già dato. Ragazzi, ma deve essere sicuro il sesso. Ma non è così. Ma come no? Ma come puoi insistere su questo? Non è così. Non è così. Allora, meglio l'astinenza che scopare col preservativo. Allora, sei pronto a dire questo? Io dico che tu hai due scelte davanti a un figlio che ti dice: adesso cosa faccio? Vado con la prostituta di Ma che c'entra? Non è che l'alternativa è la prostituta, è la ragazza, magari, è la ragazza. Dagli uno schiaffo o dirgli: ecco, di 100 euro il preservativo. La mia scelta, perché l'illusione è solo l'illusione, il sesso sicuro. Sì, ma non è che per forza la preservativa. Sì, Mario, sì, ma non c'è la preservativa, solo la... Sì, d'accordo, ma non c'è solo ma non c'è solo la prostituta, però, Mario, c'è anche la ragazza, anche se uno deve andare con la ragazza, è meglio che lo faccia col preservativo. Ma tu capisci, a parte che non è vero, insomma, la ragazza vada e goda di più senza preservativo. Ma no, tu stai dicendo ai ragazzi scopate senza preservativo, sei pazzo! Ma lo sai che lo dico, ma è un messaggio assurdo, fatelo. Io la penso così. Ma se tu dici fatelo senza preservativo, io dico che ci si deve scegliere la persona. Vabbè, e con questo si fa. Ma nel mondo reale non è così. Nel mondo reale non è così. Nel mondo reale è così. Nel mondo reale un ragazzo va con una ragazza e 2 giorni dopo magari va pure con un'altra. E allora, siccome poi tu sai che io sono un rivoluzionario e quindi il mondo reale vorrei modificarlo. Vabbè, ma questa è un'illusione, dai. Vabbè, ma io non ho capito quella foto che oggi hai pubblicato. C'era tua moglie che ti massaggiava. Aspetta, fammi leggere quello che hai scritto. Io leggo sempre quello che hai scritto. Spalmava una crema di aloe su un piede un po' ferito. Piede ferito, qui c'erano le tue gambe piuttosto corpose, ma quello è normale. Vabbè, i piedi, si sa, eccetera. Non vorrei che lo scandalo del fatto che un pezzettino di gambe si vede corposo. No, vabbè, ma io a me. Vabbè, viva, agli anni 50, viva la ciccia! Le gambe della Kessler, viva la ciccia! No, non sono le gambe della Kessler, diciamo la verità. Non sono ma fa scandalo la gamba, ma ti rendi conto che fa scandalo la gamba? Abbiamo discusso un pomeriggio sulla gamba. Allora, girare l'Italia forsennatamente ha mandato in sofferenza piedi e caviglia. Avere una moglie adorabile che si prende cura dei miei dolori con creme e unguenti per rimettermi in piedi all'inizio della settimana è tra i motivi che mi fanno ritenere più che fortunato. Allora, questa qua è l'immagine della donna sottomessa, è bellissima e meravigliosa. La donna sta spalmando una crema su un piede. Sta spalmando, ma spalmatela da solo la crema, perché c'è bisogno di tua moglie che spalma? Ma perché c'è bisogno? Una moglie spalma una crema, qual è la parola? Io su questo scandalo? Concordo. Dov'è lo scandalo? Io concordo perfettamente con lo scandalo. No. Quando lo fai tu significa che la donna è la fotografia di sposa di sottomessa. Sì. Okay. Cioè tua non mi dirai che tua moglie è felice. Il giornalista che fa quelle foto non sono sottomesse, quelle sono foto di libertà. No, ma non mi dire una moglie. Ragazzi, però tua moglie non può essere contenta di spalmarti gli unguenti sui piedi, dai. Nessuno può essere contento di spalmare un unguento sul piede, dai. Ma per amore, guarda, tu, per tuo figlio o per tua figlia, credo tu avrai cambiato pannolini pieni di cacca che puzza. Sì, ma non può essere, non si può dire, certo, voglio. Fatto per amore, insomma. Sì, ma non si può dire che piace, dai, uno lo fa così, ma spalmare un unguento. Ma perché è una cosa che piede massacrato di Mario, piede massacrato di Mario, un piede orrendo, dai, tutti i piedi sono orrendi, dai. È un piede, non particolarmente scandaloso. Sei ancora a casa, Evo? Allora, la cosa incredibile sono gli animalisti. C'è un piccolo, perché poi sono una minoranza in tutta Italia, ma rompono i coglioni in maniera pazzesca su Twitter. Sono veramente degli scassacoglioni inauditi. Gli animalisti al 100%, gli animalisti quelli convinti, super vegani, quelli che pensano che gli animali sono uguali agli uomini. Non sono uguali agli uomini, gli animali. Non sono uguali agli uomini, ecco, lo possiamo dire. Questa sarà pure d'accordo a Niloppi su questa cosa. Mettere sullo stesso piano gli animali e gli uomini, bisogna essere malati come le gattare. Io abitavo una volta a Roma in via del Governo Vecchio, dove c'erano le gattare. Te le ricordi, Mario, le gattare? Sì, te le ricorderai. Come no, le gattare di via del Governo Vecchio. Era gente malata, era gente ormai dei, per carità, io le amavo, le adoravo, erano delle gentili vecchiette completamente andate di testa, le quali erano circondate da gatti, completamente circondate da gatti, dormivano coi gatti, cagavano insieme ai gatti, facevano tutto insieme ai gatti. Quelle erano animaliste vere, ma non queste queste macchiette dell'animalismo. Eppure erano malate, erano pazze, erano meravigliosamente pazze. Le animaliste via del Governo Vecchio erano fantastiche. Cruciani, datti una calmata. Sì, dai, sì, vabbè, è vero, hai ragione, datti una calmata. Però sentite quello che hanno detto al povero Roberto Baggio. Adesso a me non me ne frega niente di Baggio, è buddista, vabbè, ognuno ha i suoi difetti. Però il punto fondamentale è che questo qua è un cacciatore, ogni tanto va a caccia, si diverte a sparare. Ma saranno affari suoi. L'hanno aggredito, è da giorni che lo perseguono, da settimane che lo perseguono, ovunque va Baggio. Ma non perché è Baggio, assassino, pezzo di merda, buddista falso, gli dicono di tutto. Ma è una cosa incredibile. Buddista, buddista signora. Vergogna. Vergogna, buddista. Quando meno te l'aspetti. Ma questi qua, ma non li vanno a prendere questi qua? Perché non li vanno a prendere? Parenzo, perché non li vanno a prendere con una camionetta? Dice, vabbè, hai, no, questa è gente davvero pericolosa, questa. Ma è una cosa incredibile, è incredibile. Vanno a rompere le palle a quello. Sono quasi come Adinolfi quando parla di... No, Adinolfi è un buon uomo, è buono, no, è scherzando, un reazionario, è scherzando. Un adorabile reazionario. E l'immagine della moglie che gli medica i piedi invece è straordinaria. Quello è il ruolo della donna, non c'è ombra di dubbio. Quello è stupendo, quello va benissimo secondo me. Adesso diciamo la verità, questa è una mia provocazione, perché caro Mario, è evidente che anch'io, anzi, ogni tanto tu sei invidioso perché a te nessuno ti tocca i piedi, neanche coi guanti. Sì, questo un po' è vero, caro Mario. Ho fatto un'intervista sui piedi, mi hanno detto adesso su Twitter, quindi è un tema che ti stimola particolarmente. Sì, perché sono abbastanza feticista dei piedi, però non dei tuoi, devo dire la verità. Io i miei piedi, ho capito. Non dei tuoi. Adesso se hai coraggio, adesso se hai coraggio, visto quello che hai dichiarato, lecchi i piedi ad Adinolfi. No, quello no, anche perché Mario non se li farebbe mai da un uomo, non se li farebbe mai da cane. Scusa, Mario, per tornare sul nostro argomento di apertura, una delle grandi inchieste della Zanzara, ma le sacre scritture prevedono le scoregge tra marito e moglie oppure no? Non ho questa abitudine, però insomma immagino non siano vietate dalle sacre scritture. Cioè, non ti è mai successo insieme a tua moglie di scorreggere? Sì, lui ci sarà successo a entrambi. Il meteorite, però non tra di voi insieme. Ah, dico, a entrambi sarà accaduto, credo non abbiamo mai fatto caso di Stato. No? Vabbè, come non avete fatto caso? Come, cioè, uno non abbiamo mai fatto caso di Stato. Ah, non avete mai creato un caso. Siamo non avete mai creato tanti di quegli anni che insomma saranno. No, certo. Successo. No, io però sono sempre stato curioso di chiederti una cosa, al di là di questo, che è la nostra grande inchiesta, vabbè. Ma è vero che stai per inaugurare, cioè, una rubrica su Radio Maria, cioè dopo aver fatto. Sempre stato curioso, è uscita oggi la notizia, perché oggi hanno ufficializzato, sì. Lunedì comincerò a essere un tuo concorrente, no, troppo in un'altra fascia oraria. Radio Maria, è la tua giusta fine, caro Mario. No, è il punto d'arrivo di una. Beh, Radio Maria, facevano delle rubriche contro gli omosessuali, che te le farei sentire, gli omosessuali malati, gli omosessuali disturbati, le rubriche meravigliose, gli amici di Radio, come no, ti pare? Lo so io, qui c'è l'archivio, lo sappiamo noi, come no? Io con un programma che si chiama Il Mormorio del Vento Leggero, dal lunedì. Programma è un titolo corto, però, hai scelto un titolo molto corto. Il mormorio del vento leggero, la cosa è la definizione di Dio. Potevo chiamarla Dio, però suonava male. Potevi chiamare a Dio, sì, potevi... il mormorio com'è? Il mormorio di un vento leggero è la definizione di pazzesca. Dio secondo il libro dei re. Radio Maria, Adinolfi a Radio Maria. Devo dire che è una degna conclusione, ma io lo dico senza ironia, naturalmente. No. Senti, ma io voglio capire una cosa: ma secondo te esiste Satana? Certo che esiste. E chi, in cosa si incarna Satana? Satana è il male, cioè vabbè, è il male, quello d'accordo, quello fisicamente in soggetti, cioè tu ci credi agli esorcisti e tutta sta roba di uno posseduto da Satana, tutto no, molte volte bisogna stare attenti che sono sole, come diciamo, a Roma, legature, eccetera, ma il male c'è. Sono persone che il male c'è ed è fisico, è una persona che si che si prende cura di riconfonderci, insomma. Quindi è cioè, una, esiste una persona che si chiama Satana, secondo te? Un essere anche che si Dio chiama. Dio è persona, capisci? Cioè, Dio è persona. Dio, noi lo... Dunque, esiste Satana. Dunque, una cosa interessante. Esiste il bene, esiste il male. Esiste bene, esiste. Scusa, una donna che rimane incinta e vuole abortire, no? Si presenta davanti a te. Secondo te, chi è? Vuol dire chi è? Cioè, è una donna che va aiutata perché deve far nascere quel bambino. Va aiutata, quel bambino deve essere fatto nascere quasi a ogni costo. Io dico che il bambino deve nascere, cioè a ogni costo. E se quella non vuole? E se quella non vuole? Quella non vuole, credo ci siano le condizioni per aiutarla a farlo nascere. E se quella ancora non vuole? Non è lui che mi fai. E se una è stata. E se una è stata stuprata? E se una è stata stuprata? Io continuo a pensare che il bambino abbia un suo diritto a nascere. Anche se è stata stuprata. Dai, su. Fondamentalmente io penso che la vita sia qualcosa di intangibile. Non avrei mai immaginato possibile ammazzare il bambino appena nato di una stuprata. Ma non ammazzare appena nato, non farlo nascere con l'aborto. Calmatemi, ragazzi, calmatemi! Venga, che ormai è tutto finito. Ormai è tutto degradato. Ma dove vogliamo andare in guerra? Noi vogliamo andare in guerra in Libia, caro Parenzo. In guerra in Libia, quando un nostro mezzo della guardia costiera, di fronte ai Kalashnikov di due scafisti, non solo queste le persone vengono, come dire, lasciate in Italia, no? Vengono sbarcate, prese dalla guardia costiera. Poi questi rivogliono indietro il mezzo, minacciano con il Kalashnikov la guardia costiera e si rifanno ridare in mezzo. Cioè, noi siamo questi, vogliamo andare in guerra in Libia, dove andiamo? Una roba incredibile. Il punto fondamentale è che i barconi non devono partire, non bisogna prendere le persone. Se prendiamo le persone, ce le manderanno sempre le persone. Ma è così difficile da capire, è difficile da fare, lo capisco, ma è quello l'obiettivo. Invece no, prendiamo tutti. Salvini se la prende con Michele Serra, editorialista di Repubblica, lo definisce un poveretto, perché Salvini, ripetiamo, riassumiamo per chi si mette lì in questo momento, per chi non lo sapesse, sono molti che non lo sanno perché se ne fottono di quello che si scrive sui giornali o di quello che si dice, perché Serra cosa ha detto? Ha detto, insomma, ha criticato Salvini per una sua frase, basta barconi, basta prendere gente, no? Era come dire lasciateli a largo i barconi, lasciateli in mare quelli che vogliono venire in Italia. Ma soprattutto sospenderei ogni operazione di sbarco sul territorio italiano, perché ormai che ci siano potenziali terroristi che vengono infilati sui barconi è una preoccupazione di tutti. Michele Serra è un poveretto che potrebbe andare a studiare in Australia, un paese civile ed evoluto che gli immigrati li aiuta, li soccorre, li nutre, li veste, li cura, ma non li fa sbarcare sul suo suolo. Dei giorni di Sanremo mi è rimasta in testa una sola cosa, la battuta che ha fatto Panariello sulla Cancellieri, che è questa, era un bellissimo, secondo me un pezzo molto bello, non è piaciuto a tanta gente sul web, ma chi se ne frega. Panariello ha detto, le ministre del governo Renzi, le ministre del governo Berlusconi e poi le ministre del governo Monti. Una cosa però Renzi l'ha imparata dal suo predecessore, fateci caso, e infatti Berlusconi com'è che ha stravinto? Perché ha candidato, avete mai visto donne belle in politica come in questo periodo? Ha candidato la Carfagna, la Prestigiacomo, la Gelmini, Renzi furbo che ha detto aspetta un attimo, e ha candidato la Madia, bella no? la Moretti, ma l'ultima la Boschi. La Boschi è, ragazzi, è di una bellezza. Perché il governo Monti non ha funzionato? Perché si è presentato con lei. Carlo, sembra Cecchi Gori. Giorgio. No, pochino Cecchi Gori. La Fiorentina, la Fiorentina, la Fiorentina. Era la foto della Cancellieri. And now the headlines with News Channel 3. E adesso i titoli del TG3. Continuano i bombardamenti egiziani sulle milizie dell'ISIS. La Francia chiede un intervento urgente dell'ONU. Il premier libico agite subito, arriveranno in Europa. Arrivati a Roma gli italiani evacuati da Tripoli. Nei loro racconti la gravità della situazione sul terreno. Rientrato anche l'ambasciatore. Renzi, preoccupazione per la situazione in Libia, ma no a reazioni isteriche, non è tempo di interventi militari. Colloquio con il presidente egiziano Al-Sisi. Segnali preoccupanti sulla tenuta della Grecia in Ucraina, si combatte per tenere le posizioni, nessun segnale di ritiro delle armi pesanti. Scontro duro a Bruxelles sul salvataggio della Grecia, Schäuble accusa governo Tsipras irresponsabile, Atene replica, assurde e inaccettabili le proposte europee. Ancora tensione nel governo del calcio, si spacca la Lega Pro dopo una votazione favorevole alla cordata guidata da Lotito. 29 società lasciano l'assemblea per protesta. Abbiamo sempre con noi il direttore della Croce, Mario Di Nolfi. Allora Mario, ti dico subito... Perdonami Giovanni, mi fai dire una cosa? Che c'è, Mario? Questa cosa dei barconi, una cosa seria la voglio dire. Sì, attenzione! Dimmi. Perché io sono convinto che se noi esponiamo i nostri marinai in queste raccolte in mare, sì, un giorno di questi l'ISIS ce ne rapisce qualcuno. Appunto, dico, quello che dico io. Abbiamo idea di quello che è successo con i Marò. Ecco, immaginate cosa vuol dire avere 4, 5 o 6 marinai italiani in mano all'ISIS. No, ma quello che dico io, noi mandiamo la guardia costiera con i barconi e poi la guardia costiera si fa fottere perché magari sono impreparati. Probabilmente, perché sì, sono certo, molto si fanno esatto, tutti quanti, quindi finché però succede semplicemente il problema della barca è una questione. Sì, se uno di questi rapiscono i nostri marinai in mare aperto, appunto, allora dico, lì diventa una questione estremamente ma dove vogliamo andare in Libia? Per carità, sì, poi magari siamo pure bravi, però abbiamo la guardia costiera che si fa fottere con i tizi, con gli scafisti armati di Kalashnikov, non solo è costretta a prendere le persone perché questo è l'ordine superiore che viene dall'alto, dall'Europa, prendiamo tutti, no? Ma in più dobbiamo pure subire lo smacco, la figura di palta di avere questi qua che si riprendono il barcone con i Kalashnikov. E dunque attenzione che quell'atto è un atto violento, se dovesse diventare un atto contro le nostre unità in mare, sì, certo, la questione diventa di un problematico che non si ha idea, insomma loro non aspettano altro che avere ostaggi, sì, italiani in mano, attenzione. Parenzo, no? Ma tu ci sei ancora o sei morto lì? Ti hanno rapito le suore? No, ci sono, voglio vedere se leggono il quotidiano di Adinolfi. No, ci sono e come, ma ha ragione Marione su questa vicenda qua. Dopodiché però tu non puoi dire lasciamoli lì. Sì, assolutamente. Perché solo se è chiaro che noi non prendiamo più nessuno parte. Ma è evidente, è chiaro, lampante. Usare l'argomento con te che sei viva l'Australia sempre, lo dico da prima di Salvini. Allora, però volevo dire una cosa da Adinolfi, poi lo lasciamo. Allora, c'è la nuova editorialista, una delle nuove editorialiste della sinistra progressista che si chiama Valentina Nappi, quale scrive le ultime quattro cose, te le leggo su Facebook. Mi offro gratis come regista per i vostri video privati amatoriali. Volete un ricordo della vostra prima volta? Mandatemi un'email. Etero dovrebbe essere un insulto. Non sono un po' etero, sono bisessuale. Essere etero è regressivo. E poi coloro che apprezzano 50 sfumature di grigio sono delle fighe di legno, vabbè, quello è normale. Ma ormai la questione dei trans è sdoganata ovunque, anche la CBS o la NBC farà una nuova serie dove il protagonista è un transessuale. Ti devi arrendere, caro Mario. A Milano arriveranno, aspetta, ultima cosa, a Milano arriveranno per l'Expo, pare che arriveranno migliaia e migliaia di prostitute da tutto il mondo. Che vogliamo fare? Punire migliaia e migliaia di clienti, caro Mario? Ah, io sì, io per me la regola è quella svedese. La regola svedese è punire i clienti, dai, perché in Svezia, punendo i clienti, le prostitute sono passate con una riduzione dell'80% della cosiddetta forza. Se ne sono andate in Finlandia, non lo so cos'è. Ma ho capito, si sono spostate. Non è inventarsi il modo di favorire la prostituzione, la soluzione è combatterla, la prostituzione, Assolutamente andando addosso, cioè, niente, secondo te un cliente deve essere multato con la multa che arriva a casa, così 500 euro a casa e col timbro. Questa è la modalità, col ma timbro proprio sopra, come il timbro sopra, cioè sei un puttaniere, sei andato a puttane col timbro così, ma così. Dai su, ma Mario, ma sei ma che vizio, non è un vizio. Ma io non sono mai andato a prostituta in vita mia, non riesco a capire il gusto di andare a prostituta, e sinceramente considero 120.000 donne in Italia utilizzate come schiave. Ma che schiave, una vergogna nazionale. Ma quelle schiave, che sono schiave, sono schiave, schiave. Quelle che lo fanno liberamente, schiave, lo fanno liberamente. La prostituzione d'alto bordo, di quelle che dici te, che lo scelgono liberamente, è un segmento minimale. Ma che minimale? Totalmente minimale. Punite i clienti, perché punendo i clienti si assolve. Cioè, magari facciamogli pure il bollo in faccia, magari mettiamogli il bollo in faccia. Timbro pure sulla multa, tutto qua. Un bel timbro. Ma timbro, sono un puttaniere. Sono andato a puttane. È stato trovato in zona. Andrebbe messo anche sulla. Io sono d'accordo con Mario su questo. Pensa te come siete ridotti. Siamo sempre d'accordo. Andrebbe messo anche sulla macchina, e sono molto serio invece, un bollino come quello che c'è scritto Bebè a bordo. Andrebbe messo un bollino rosso, dice, io sono uno che va a buttare. Ma siete veramente pazzi voi, cioè siete contrari alla libertà, siete contro la libertà. Contrari alla libertà di andare a puttane, la libertà. Esatto. Il contrario alla schiavitù, Giuseppe. Ma che contrario alla schiavitù? Sono pure io, che c'entra? Ci sono già le norme per combattere la schiavitù. Vergogna, l'isola dei famosi con un pornostar, come la consideri? Il diavolo, te? Ma quello non la guardo, è una boiata. L'isola dei famosi. Ma come una boiata? È una boiata, dai, ma che per carità. Ma davvero, ma che ci interessa? Insomma, davvero, ma perché, scusa, non ho capito. Ci sono un sacco di gente. Ma chi è sto sacco di gente? Che guarda l'isola dei famosi, che sono tutti rincoglioniti che guardano l'isola dei famosi. Sostanzialmente sì. Sono dei rincoglioniti, vabbè, abbiamo deciso che quelli che guardano l'isola dei famosi col porno star sono dei rincoglioniti. Ma pure quelli che lo fanno, secondo me, sono un po' più. Tu non ci andresti, scommetto. Beh, dipende dai soldi, guarda, dipende sempre dai soldi. Non ci andresti, conosco un po'. I soldi sì, hanno una loro importanza. Dai, non mi dire di no. Tu, per esempio, ricordati che a me hanno offerto di andare alla Talpa con tanti soldi, tanti. Dipende quanti erano i soldi. Evidentemente all'epoca ce li avevi, No, ho sempre avuto, però alla fine ho avuto la mia tentazione, perché il diavolo tenta, poi ho rifiutato. Questo è no. Comunque, ma è vero che tu hai fatto un po' di soldi con le scommesse collettive? Scommesso, sì, no, ma la scommessa collettiva, cioè prendere del denaro e poi reinvestirlo, eccetera, da tante persone. Con un po' d'amici abbiamo fatto cose. Ma non è particolarmente, non è cristiana sta cosa, non è molto cristiana sta cosa. Beh, se vince è bello, insomma. Beh, ho capito, non è cristiano, anche giocare a poker, anche il gioco d'azzardo non è molto cristiano. Io sono un peccatore, non è che io mi sto proponendo come tanto, io sono un peccatore. Capito, ma il demonio non è nel gioco, il demonio. Devo dire un'altra cosa in più, io sono anche sposato in seconde nozze a Las Vegas. Lo so. Tranquilli, la croce te la dovresti dare addosso. La cosa bella è che Gesù camminava con i peccatori, capisci? E le prostitute, però diceva una cosa: va e non peccare più. E noi abbiamo deciso, insomma, Di non peccare che avesse un senso. Ma un trans ce l'avete in mezzo a voi della croce, il tuo gruppo, eccetera? Un trans, c'è sta un trans o no? Oppure consideri i trans degli abomini? Tu consideri i trans degli abomini? Diciamo la verità. Ma non è vero, io sono contro l'ideologia gender. Ma ma non esiste l'ideologia gender. Il maschio e la femmina sono concetti sociali che uno cambia come cambia. Ma no, ma esistono anche esistono maschi, femmine, trans, eccetera, eccetera, esistono tante cose. No, esistono maschi e femmine. E gli altri che so? E gli altri sono maschi e femmine. Ma no, ma per qualcuno, se uno è trans è trans. Se uno è trans, tu sei contro il cambio di sesso, il fatto che noi paghiamo i cambi di sesso, per esempio in Italia, sei contro? No, non sono contro, non lo considero una realtà. Ma come una realtà? È una realtà. Cioè, ma è così, marginale, sempre queste cose secondarie non hanno granché di rilevanza. Non facciamo diventare un'ideologia l'idea che si cambia il sesso come si cambia un abito, perché non è vero. Ok, però esiste, che fai? Glielo impediresti di cambiare sesso col denaro pubblico? Impedirei l'utilizzo di meccanismi che portano a cambiare sesso per magari incentivare il mercato della prostituzione. Ma quale mercato? Ma particolare, dai ragazzi, ma insomma, attenzione, non sono temi su cui si gioca questi. Vabbè, Mario, vai. Veramente seri. Vai alla croce, va. Tua moglie ti ha massaggiato bene. E femmine. Ma esistono solo maschi e femmine, gli altri non esistono. Ma bene con i piedi. Maschi e femmine, Dio li creò. Disse così la Bibbia. Ciao. Alle prostitute bisognerebbe dargli una bella pensione, perché fanno un servizio sociale talmente importante che loro forse neanche se ne accorgono. capto, sai cos'è? Capto. Cosa? Cosa? Sai quelli che vanno i cani da tartufo? Sì, ho preso. La stessa cosa per la patata bollente. Cane da patata bollente. Però riflettevo prima sulla frase della Nappi, caro Parenzo. Rifletto sulla frase della Nappi, ti dico solo questo. Allora, non sono un po' etero, sono bisessuale. Essere etero è regressivo. Questo non credo però, cara Valentina, cioè, soprattutto quando aggiunge etero dovrebbe essere un insulto. Adesso non esageriamo, io sono... Beh, io capisco che questo è il tuo modo per esorcizzare la paura del califfo che potrebbe sbarcare a Lampedusa, no? Capisco. Beh, il califfo che sbarca a Lampedusa significa che so cazzi per tutti i gay di Lampedusa, però. Ma non solo per loro, amico mio, sai? No, non però, per esempio, per loro. Tra le altre cose per loro, no? Io vedo che la tua priorità è quella e va benissimo, d'accordo. Ma come giudicare invece? Come giudicare invece il caso di quei 50 rom che una volta piazzatisi al ristorante Le Tre Pietre in un paese che si chiama Moimacco hanno mangiato, si sono rimpinzati le pance, di solito anche molto capienti, molto grosse. Io non so perché i rom hanno tutti la pancia grossa. I signori rom, ma quelli anche che perché si... mangiano male, bevono birra. No, ma è una cosa che a parte i ragazzini, poi a un certo punto quelli quarantenni si nutrono male, andrebbe fatta fare una dieta. Cioè, pure la dieta. Sì, pure la dieta, un po' la dieta. Dai, sì. Su. Ogni volta che sono in quarantena hanno tutti la pancia, una cosa inguardabile, sì. Tutti quanti. Poi dice sono povero, ma povero di che? C'è la panza così. No, dice mangiare. Però ma chi c'è? Perché mangiano male, cosa c'è? Mica allora, comunque, questi 50 rom sono scappati da questo locale in automobile, rincorsi dal proprietario fino a Udine. Giustamente il proprietario dice adesso mai più gli zingari nel mio locale, perché poi la conclusione è questa. C'è invece un preside a Cervignano, vicino Cervignano, sempre nel profondo nord. Bravo. Il quale vuole vietare il velo in classe. Ecco, questa è una porcata proprio, una porcata di primo livello. Sostiene che i segni esteriori della propria religione possono essere colti come provocazione. Dunque vuole vietare il burka integrale, il niqab, cose del genere. Una cosa che piacerebbe al nostro amico Bonanno, questa qua. In classe, io devo dirti la verità, sono totalmente indifferente a questa cosa, me ne fotto totalmente. Beh, no, dovresti essere. È evidente che se in una classe ci sono 20 persone, di cui 15 vengono col velo, un problema si pone. Però, qual è il problema, scusa? Quale sarebbe il problema? Si pone un problema. Che problema si pone? Per le 5 persone che sono senza velo, magari, no? Però è un caso limite che non esiste. In realtà qui c'è una che è andata col velo in classe e passaci sopra, ma che te ne fotte? Va col velo, saranno cazzi suoi. No, è un suo diritto. Importante che non copra la faccia non si deve coprire. Ma questo è ovvio, è un suo diritto quello di andare. Sì, va come vuole, sì, ma sono d'accordo con te in questo caso. Me ne frego, ma sono d'accordo con te. Ma me ne frego. Ma tanto, comunque credo che sia. Tutti. Ma credo che sia inapplicabile questa cosa qua. Perché se i genitori la vogliono mandare, che fa? Il preside la tiene fuori? Vabbè, comunque. Andiamo a Milano, Franco, vai. Sì, pronto. Dimmi, Franco, dimmi. Allora, prima di tutto faccio i complimenti a chi mette gli stacchi musicali, che sono eccellenti. Vai, veloce. E poi devo dirti a te che se mi dici che gli animali sono diversi dall'essere umano, non capisci un cazzo, perché scientificamente non è così. No, non è così. L'uomo è uguale a un animale. Ma scusa, quando c'era il Giurassico, il Triassico, dove cazzo era l'uomo? Ma adesso non stiamo parlando della preistoria, stiamo parlando. Ma cosa vuol dire? Stiamo parlando del 2000. È un'evoluzione, sì, ma scusa, va bene. Niente? Del 2014. Parli? C'è gente come questi. C'è gente come questi malati che vanno a rompere le balle. Ma questo sono d'accordo, io non sono un animalista, mangio la carne. Sì, ma tutto parte dal fatto che ci sono delle persone, degli estremisti in Italia, eccetera, eccetera, che pensano di mettere sullo stesso piano, con gli stessi valori, eccetera, eccetera, un animale, un gatto, un cane, per parlare solo di quelli più conosciuti, di quelli più vicini all'uomo, e l'uomo. No, sono due cose diverse, chiaro? Sì, ma la gattava quel deficiente che avevi in Vabbè, Franco, adesso. Hai capito benissimo. Michele, provincia di Bolzano. Andiamo in provincia di Bolzano, dai. Ciao, buonasera. Vai, dimmi, per caro, me, dimmi. Come dicevo, è un atto d'amore fare una scorrezza. Perché? Ah, tu sei tornato sul tema flatulenza, scoreggia. Flatulenza, no? Sì, flatulenza. Sì, grande tema, Parenzo, grandissimo tema. Uno se ne può schifare, può anche trovare tutte le motivazioni, insomma, sono cose soggettive. Però, alla fine, tu non è ma che... Ma un atto d'amore, adesso stai esagerando, un atto d'amore, amico mio, Michele, dai. Non ho capito, scusa, questa cosa... Non ho capito una cosa, scusami, ma non ti suscita imbarazzo? Cioè, no, lo chiedo a Cruciani, non a questo ascoltatore che è un maiale, perché insomma questo è un maiale. Ma perché ma un maiale? Ti... Dice che è un atto d'amore, sarà come perché dire, saranno affari suoi. Ma se, allora, se a Michele piace impuzzolentire la fidanzata e spararsi scoreggia a vicenda, magari anche in faccia, ma saranno affari suoi. Ma ognuno vive come vive. Sì, forse è una porcilaia. Posso dire che non è normale o no? Tutto diventa Michele, normale. Voi vi scoreggiate a vicenda in faccia, Michele? La fa e poi se ne scappa dall'altra parte a vedere la reazione della gente. Quella è la vigliaccata. Tu non ho capito, ma spiegami un po' la dinamica in cui avviene questa cosa nella tua coppia, con tua moglie, con la tua fidanzata, con la tua amante, eccetera. Mi scappa a casa tua, hai la tua libertà? Sì, bene, sì, ho capito. La fai. Pace, fa la parte fai. Di te. E qua, puoi anche e l'odore? Modulare. E l'odore? Puoi anche, insomma, trovarne un senso. E è l'odore? Prego? E l'odore? L'odore, anche quella è tutta una teoria, perché se più sforzi, bruciano gli odori. No, non ho capito bene. Cioè, la tua teoria è che più fai, cioè, puoi anche evitare l'odore, dici, tecnicamente, esatto, lo puoi fare. Se tu sforzi di più, ovviamente, stai per i cavoli tuoi a casa, l'odore diminuisce. Prova domani mattina, vedrai che è così. Giuro, no, veramente. Dai, su Parenzo, tu hai mai provato a sforzarti per non provocare l'odore nella scoreggia? No, è butano. Sì, però è vero, Michele, ci sono delle tecniche per evitare che faccia odore. No, vero. Io voglio confessarti. Senti, se brucia, quella puzza, quella in genere, dimmi, se mi capita, quando intanto mi capita, perché anche a me. Scusa, ma vuoi chiedere là nella saletta di Eurostar, ma lei scoreggia insieme alla sua donna? Ti prego, ti prego. Tra un po' lo facciamo. No, col telefonino, però... vai là, dice, scusi, ma lei scoreggia insieme alla sua fidanzata, guarda, insieme alla sua moglie? Viste le facce dei presenti, io non credo sia un tema che si possa, come dire, ma è l'unico tema rivoluzionario, ma di che vuoi parlare? Di Libia, di quanto non succede niente, ancora siete convinti che la guerra, le cose, gli attacchi contro l'Italia, non succede niente, tranquilli. Vabbè, Michele ha detto che la scoreggia è un atto d'amore, giusto? Ah, abbastanza. Del vincoli, almeno a casa tua, tac. Un atto d'amore, va bene. Oscar da Modena, signor... no, ma voglio capire se questo ascoltatore è anche di quelli che la fa sotto le coperte e poi la annusa e la tiene anche stretta in modo che non esca, perché questo è un maiale. Allora, posso dire una cosa? Che lo faccio anch'io ogni tanto da solo. Beh, non avevo dubbi. Da solo. Guarda che su questo io non avevo dubbi alcuno. No, da solo, devo dire la verità, da solo. Ma io posso dirti che non avevo dubbi. Ma da solo, scusa, ma da solo, perché da solo tu non l'hai mai fatto. Vuoi dire che non l'hai mai fatto da solo? Ma non ho questo gusto per le cose un po' maleodoranti. Ma le cose che ti appartengono, puoi fare tutto con le cose che ti appartengono, dai. E ma allora è così, dai, è così. Allora, sai, siete è un ambiente di maiali. Buona zanzara a tutti. Daniele da Pescara, Daniele, vai. Ciao. Ciao, io volevo dire, siccome tu parli sempre del tema di legalizzare la prostituzione, sì. Io sono disabile e ho fatto il collegamento a quello che si sta tentando di fare all'assistente sessuale. Oh, caro Daniele, ti ringrazio di questa telefonata fondamentale, no, non lo dico ironicamente, perché tu sei disabile, ecco, raccontaci un po' della tua disabilità, caro Daniele. Io ho una paresi spastica, in parole povere, non cammino senza appoggio e mi muovo a fatica. Ti muovi a fatica? E naturalmente, questo da quanto tempo, caro Daniele? Dalla nascita. Ecco, ovviamente il sesso per te è una sorta di chimera, è una sorta di cosa molto molto complicata, o sbaglio? Sì, più o meno. Più o meno, e come fai? Raccontaci come fai. No, ma quello che volevo dire non è come no, ma come fai, non tecnicamente, cioè come fai, poi anche se vuoi, ma insomma come fai a procurarti del sesso, ecco, questo è il punto. Ma non, sinceramente, di procurarmelo fino adesso non ho avuto necessità. Non hai avuto mai necessità? Quello che volevo dire... Ma quanti anni hai, Daniele, quanti anni hai? 33. Scusa. 33 anni. Non hai avuto fino adesso necessità di procurarti del sesso o di avere, di fare del sesso con qualcuno? No, mai. Il desiderio ce l'ho avuto, però diciamo non è così impellente da non poterci passare sopra. Ok, e allora che cosa che ci volevi dire? Volevo dire che la forma, l'assistenza sessuale ai disabili sarebbe comunque, al di là di quello che fa, se sono carezze o qualsiasi cosa, sì, è una forma di riferimento alla sessualità di una persona, sì, e sarebbe legale. Cioè tu dici, vabbè, quindi, se servono gli operatori sessuali del sesso, dici? No. Io volevo dire che se per me è legale, per quale motivo una escort per un normodotato deve essere fuori legge? Ah, ho capito. Fuori legge per tutte le categorie o non lo è per nessuno. No, vabbè, ma quello d'accordo, ma siccome non è legale nemmeno per te tecnicamente, anche se poi ci sono, no, varie cooperative, credo, ci sono delle iniziative locali, no, per chi è disabile, o sbaglio? Sì, tecnicamente ancora non lo è, ma stanno provando a legalizzarla. Ma tu sei a favore della legalizzazione delle operatrici sessuali, anche sì, per gli... io sono a favore della legalizzazione di tutto. Di tutto. La libertà di scelta viene prima di tutto. Sì, sì. Ah, sì. Vabbè, ciao Daniele, ciao, ciao caro. Ciao a te, ciao, grazie. Ciao, grande, ciao. It was a beautiful day. Sun beat down. Ma abbiamo con noi grande ritorno alla Zanzara, con un Palermo che va fortissimo, signori miei, fortissimo, il presidente Maurizio Zamparini. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti voi. Allora, caro Maurizio, quando io ti dicevo che dovevi tenere sto Iachini, amico mio, tempo fa, ho detto tienilo, e tu non è che hai seguito me, per carità, hai seguito anche il tuo istinto, no? Il tuo stavolta hai resistito, no? E beh, alla fine, comunque vada, c'hai ragione, o no? Sì, sì, sicuramente, anche perché con Iachini mi lega un affetto da tanti anni, come ho detto altre volte, no? Per cui era il mio capitano nel Venezia, poi l'ho inventato io come allenatore, ci siamo ritrovati, ci sentiamo tutti gli anni e sono felice per lui, oltre che per me. Ma ti senti spesso con lui, ogni giorno, sì? Ogni giorno ti senti, eh? Ma i consigli sulla formazione glieli dai, no? Sì, ogni tanto glielo dici, dai. No, parliamo di calcio, presidente, mica sono tutti deficienti, io capisco di calcio anch'io, per cui parliamo della partita, no, ho fatto una battuta perché tutti pensano che i presidenti devono solo cacciare i soldi. Io faccio calcio da 50 anni, l'ho giocato, poi l'ho sempre fatto. Per cui ci capisco anch'io, ogni tanto gli do qualche consiglio. Per cui noi parliamo anche di cose tecniche, io l'allenatore sicuramente, però l'allenatore è lui, non sono io. David, omaggio al presidente che oggi è qua, quinto, sesto in classifica, sta volando con a vele spiegate, come dire, no? Ma quello del calcio me ne frega niente, può fare quello che vuole, va benissimo. Mi dispiace, sono proprio controcorrente, un anti-italiano. Invece voglio chiedere al buon Zamparini, scusami se chiedo un attimo, siamo in diretta? Sì, certo. Sì. Sto andando a Palermo, mi puoi consigliare per cortesia buon ritorno? Vabbè, comunque, va bene. Consigliare un posticino, amico mio, dove posso andare a nome tuo e magari mettere anche in conto alla società? No, quello non credo. Quello non credo. Maurizio, dagli posticino. Dagli un consiglio sul ristorante a Palermo, un posticino. Non posso darlo perché se do un nome mi faccio nemici 99 altri. Ce ne sono tantissimi e se vai tu sicuramente fai un colpo di telefono, sarai ospite mio a Palermo in qualche modo. No, vabbè, ma sei incredibile. Sei riuscito. Ma sei a carico di Mediaset in questo caso? Sei a carico di Mediaset? Io ho sempre detto. Se si può fare risparmiare l'azienda. Gli amici? Sì, se si può fare risparmiare gli amici. Io ho sempre detto che Zamparini è una brava persona. Quando tu dicevi no. Io non ho mai detto niente, sei impazzito. Io ho sempre detto che non solo. Ma è un benefattore. Io penso che Zamparini debba andare al posto di Renzi. Basta, Renzi. Zamparini. Senti Maurizio, ma poi che non dicano che i giornalisti si fanno comprare per un piatto di pasta asciutta. Ecco, non esatto, che non dicano questo. Non voglio che si dica questo. Senti Maurizio, però io voglio chiederti una cosa. Qui si parla, nel calcio si parla solo di una cosa. Al di là del Palermo, stasera andrò a Tiki Taka, ci sarà anche il tuo allenatore Iachini. Tiki Taka. E certo, assolutamente, dal mitico Pardo. Allora, voglio chiedere una cosa. Voglio chiedere una cosa a Maurizio, si parla solo della vicenda Lotito, solo esclusivamente della vicenda Lotito. Ora voglio capire una cosa: per te è più importante la forma, cioè le telefonate, o la sostanza di quello che ha detto? Ma vedi, per me sono importanti Allora, a un certo momento nel regime sovietico, quando a un certo momento i figli potevano registrare telefonate o il papà che era liberale andava in galera, non va bene. Allora, nel cioè caso, quello che ha registrato sta telefonata, caso, come lo consideri? Caso, no, fermo, nel caso ci sono due visioni. Una è una visione sportiva e l'altra è una visione economica. C'è un presidente che io stimo moltissimo, come Zaurentis, per esempio, che vorrebbe un campionato di calcio italiano come nell'NBA, io non so l'inglese, nell'NBA americana, NBA, cioè sì. La NBA americana, e che naturalmente non ci sono né retrocessioni. E tu sei d'accordo? D'accordo? No, assolutamente, perché loro nell'NBA americana vuol fare, pensa che il calcio, lo sport sia uno spettacolo. Io penso che il calcio sia uno sport. Allora, nello sport però non puoi neanche permettere, se è uno sport, non solo quello che dice Lotito, ma non puoi neanche permettere che la meritocrazia in Italia sulla classifica sia quella degli ultimi 50 anni. Perché? Non puoi permettere che ci siano dei presidenti che abbiano fatto delle proposte della Gold Card, carta d'oro, che così in Champions ci andavano solo quelli che avevano vinto di più negli ultimi 50 anni e guarda caso le tre grosse società. Mi stai dicendo che, che la meritocrazia in Italia negli ultimi 50 anni non c'è stata e che hanno rubato i campionati, quello stai dicendo? No, quella si chiama storiografia. Cioè? Allora, in Inghilterra la meritocrazia premiano in quest'anno quelli che arrivano, la prima prende 20 quote e l'ultima prende una quota di quelli che hanno meritato quest'anno. Noi in Italia abbiamo tante cose che non funzionano. Io vedo quello che è successo a Lotito come una lotta di potere fra un potere che c'era prima e un Lotito che ha cercato di occupare un altro potere, non mette un servizio come dovrebbe essere, è come dare io nel calcio, ma un potere, e sia una lotta fra questi due poteri. Ora, io ci sono rimasto molto male perché quello che mi fa male è che un individuo che io non apprezzo di sicuro, anzi il contrario, si permetta di registrare una telefonata e di darla alla stampa. Un individuo, se è onesto e ha le palle, cioè, come lo consideri questo? Gli dici: io non sono d'accordo con te, non mi telefonare, e poi può dire alla stampa: Lotito mi ha telefonato per condizionare il mio voto per la Lega Macali o roba del genere. Ecco, questo è un altro fatto. Come lo consideri lui? Un delinquente, questo qua che ha registrato la telefonata? È una persona di bassissimo spessore. Di bassissimo spessore. Mi sembra più importante per te il modo in cui queste parole di Lotito sono state storte, diciamo, piuttosto che quello che ha detto, giusto? Quello che ha detto è un Ma ti pare possibile che uno dice che non quello vogliamo... Quello che ha detto è un discorso privato. Quello che ha detto poi sono delle cose, come dicevo, che i diversi presidenti la pensano come Lotito, che deve essere uno spettacolo e non lo sport. E io la penso diversamente, che il calcio è uno sport. Io non la penso assolutamente come Lotito, ma non vedo il caso. Il caso è quello che è stato pubblicato, una conversazione privata, appunto. Il resto è una lotta di potere. E qual è il potere? Come è posizionato il potere? Da una parte la Juve, dalla parte... Ecco, bravo. E dall'altra c'è Milan, Galliani con Lotito, eccetera. E l'altro c'è Lotito, che ha occupato una posizione che per 40 anni ha occupato la Juventus, e la Juventus tenta di riprendersi. Io la vedo così. Andate per una fanculo e finisce la questione, insomma. Allora, eccoci qui la zanzara, dove pochi istanti fa il presidente del Palermo Maurizio Zamperini ha offerto una cena fuori a David Parenzolo, diciamo a voce alta, cioè il presidente del Palermo ha offerto una cena e il giornalista Parenzolo ha accettata senza colpo ferire, diciamo la verità. Sì, perché non ho alcun conflitto di interesse fottendomene io del calcio amabilmente, quindi mai a dover scrivere di calcio, perché non c'è quindi conflitto di interessi. Vabbè. Può offrirmi tutte le cene che vuole. Allora, voglio chiedere a Zamperini una cosa. Lotito, no? Torniamo sempre su Lotito, però scusi un attimo. Ma Lotito ha detto una sciocchezza, ma ha ragione Zamperini, il caso è chiuso, è un infame quello che ha registrato la conversazione. Ma uno può anche registrare per difendersi da alcune cose, no? Ma come? Proprio noi diciamo che non puoi registrare questo tipo di telefonate. Non si può dire. Non ricattiamo. No, scusami, è un po' di... Certo che è diverso. Noi facciamo tutta un'altra cosa. Non è che noi registriamo e teniamo nel cassetto qualcosa e poi diciamo: amico mio, mai fatto. Non siamo dei ricattatori, noi facciamo degli scherzi telefonici, che è una roba diversa, completamente diversa da uno che fa una conversazione. Però scusami, privata, Maurizio, scusami un attimo, Lotito, però lo vogliamo dire che, per esempio, ha detto che il Carpi, il Frosinone, cioè se vengono in A tutte queste squadre siamo rovinati, che non riusciamo a vendere il prodotto? Ha detto una boiata o no? È contro la meritocrazia? Ha fatto una visione di quello che vi ho detto io prima. Ci sono due visioni del calcio: uno che lo vede solo spettacolo ed economico. Sì, ma non fare l'analista. Dimmi se sei d'accordo. Non sono d'accordo in maniera assoluta, l'ho già detto prima. Non sei d'accordo? Dunque ha detto una boiata quando ha detto questa cosa qua del calcio. Sicuramente, ma io l'ho combattuto in Lega quando queste persone qui, non solo l'ho detto, altre persone portano avanti questi discorsi, quella della Gold Card per andare in Champion, quello del NBA americana come campionato. Io è 20 anni, 25 che combatto con loro in Lega, dove gli dico che io sono entrato per fare dello sport. E lo sport è una cosa diversa. Ma scusa, il Carpi ha tutto il diritto di andare in Serie A insieme al Frosinone, e perché no? Ho portato il Venezia io dopo 32 anni in Serie A, perché non ci deve andare, anche se è una città che ha 60.000 abitanti. Beh, appunto, no, ma Venezia è un po' più grande, diciamo. No, 60.000 abitanti Venezia, poi è grande di turisti, è grande di immagine. Tu dici il pubblico è meno di quello dei Carpi, dici? Più o meno, uguale. Vabbè, comunque, che voto dai allo Tito per questa sua uscita qua col coso? Dammi io su una cosa. Dammi un voto. Se lui avesse fatto delle esternazioni pubbliche su queste, gli darei zero. Ma ha detto che Abodi è un cretino. Ho detto, ripeto, se lui avesse fatto delle esternazioni pubbliche, gli darei zero. Per quello che è una questione privata non posso dare nessun voto. Ho capito. Perché è la cosa infame è aver registrato una telefonata privata, non va bene. Lui ha detto che farai tanti soldi da portarli con la carriola addirittura. Quello non c'ha una lira, figurati. Io in Lega ho combattuto contro Lotito per anni. No. E sedeva, io non ci vado più in Lega da un anno e mezzo, sedeva vicino a me e mi divertivo con lui perché lo prendevo in giro, perché Lotito è spassoso, ma Lotito è uno che lavora 24 ore al giorno. Ma questa è la sua forza. Lotito è anche uno capace. Lotito per il suo potere. Capito, ma non è onnipotente? Lui forse si credeva onnipotente. Si crede onnipotente. E non sa che il potere dà fastidio a molti e che poi lo combatteranno. Ed è quello che gli è successo. Ma non è un delirio di onnipotenza questo qua, quello che abbiamo sentito? Può anche darsi. La Gazzetta dello Sport ne ha sofferto Mussolini, ne ha sofferto Appunto. Grazi, ne hanno sofferto in tanti a livello grandissimo. Dunque anche lui un po' è affetto da questa roba qua. Anche lui. Anche quando leggevo che voleva fare il politico è un delirio di onnipotenza. Scusami, ma la Gazzetta che lo paragona addirittura a Licio Gelli. Sono filo juventini, secondo te sono filo juventini? Non posso dare nessun parere né sui giornalisti né sui giornali, perché mi uccidereste. Che sennò dopo ti ammazzano tu. Mi uccidereste. Senti, però un'altra cosa, la questione da vecchio, amico mio, caro Maurizio, ma è una cosa incredibile. Noi abbiamo un presidente della Federcalcio che si fa comprare i libri, libri. Non ci credi? È vero, non si fa. Credo. Parenzo, diglielo tu, fatto comprare della Federazione Italiana Giuoco e anche dalla Lega Nazionale Dilettanti prima. Il suo, io direi, cazzo di libro, perché non ma è. Ma quanto ci ha guadagnato lui da quei libri? Niente, probabilmente. No, ma che c'entra se non ci hai guadagnato? La sua firma, che magari era l'esperienza del caso. Ho capito, Maurizio, ma se non tu. Non si può dare le notizie come? Così. Ma scusami, anche se tu ti facessi comprare dal Palermo Calcio un tuo libro, ti faresti male da solo, perché i soldi sono sempre tuoi. Ma io faccio un altro esempio. Prova a immaginare. Fammi parlare a me. Se il presidente della Bocconi a un certo momento scrive un libro di economia e poi la Bocconi lo compra perché è scritto bene, che cacchio c'entra? Ma quelli sono affari privati, sono soldi privati, la Federcalcio sono in parte soldi nostri, come sai. Perché quelli della Bocconi di chi sono? Vabbè, la Bocconi è un'università, che c'è, privata, ci sono le rette. Il calcio di chi sono? In parte privati, in parte pubblici, come sai, in piccola parte. Però scusa, allora, Maurizio, tu dovresti incazzarti. Tutte queste cose qui, ci sono delle lotte stupide. Ma dovresti incazzarti per primo per il fatto che il presidente della Federcalcio si fa comprare dalla Federcalcio dei libri, non anche se non ci guadagna. Non credo. L'ha detto. Ma vabbè, non ci credi. Che vuol dire non ci credi? Come quella della banana, che lui sia contro i negri, non ci credo. Ma non ci credi, basta sentirlo quello. Che vuol dire non ci credi? Fammi ridere. Questa Italia deve smettere di essere stupida. Questa è l'Italia stupida. No, ma perché si dice negri poi? Non ho capito. Si può dire negri? Perché come si dice? Bianchi? No, negri si dice, si può dire negri tranquillo, io pure dico negri. Che problema c'è? Io li amo i negri. No, appunto, i negri, no, ma tranquillamente. Sono persone come me, come te. Assolutamente, per carità. No. Ma tu vai a caccia, per esempio, sono un po'. No, odio la caccia. Odi la caccia, addirittura. Cioè, andrebbe abolita, secondo te, la caccia. Non ammazzo neanche una formica, figurati se vado a caccia. Però mica andrebbe abolita la caccia. Subito abolita. Abolita subito la caccia. Sì. No, ma no, mi deludi. Se fossi io il presidente della Repubblica, abolirei la caccia. Se fossi il presidente del mondo, abolirei la caccia. Se lo chiedi al Papa, abolirebbe la caccia. Se lo chiedi a Dio, abolirebbe la caccia. Questo è fantastico, ma non credo questo, non credo. Non credo. No, ma scusa, anzi, io credo il cacciatore, il primo cacciatore della storia dell'umanità, scusami, Caino e Abele, ma che dici, dai, scusa. Però scusami, ragazzi, mi avete fatto smettere delle tagliatelle con la faraona che mi allora ha fatto mia moglie. Oh, bella e stupendo, tagliatelle con la faraona. Da 10. Ma cosa mangi alle 8, scusa? Ma Ferrero, io vivo in Friuli, non a Roma, mangiamo alle 7. Ma Ferrero, i soldi ce l'ha per comprare tutti quei giocatori, secondo te? Sono affari suoi. Eto, eccetera. Ce l'ha? No, ma sai, riprende a fine contratto. Fa la politica che faceva prima a Marotta quando era alla Sampdoria. Ha preso Cassano, ha preso altri giocatori. E solo che poi, quando va a fare i conti alla fine dell'anno, vedrà che i soldi... fine contratto costano più che comprare i giocatori giovani. Comunque, ma a Genova non sospetto che i soldi in ce l'abbia, però che i soldi. Spero anch'io per lui, è simpaticissimo, ci telefoniamo spesso. Ah, adesso dopo aver combattuto un po' ma perché non inviti a Palermo allo stadio il Presidente della Repubblica che è di Palermo? Perché squadra tifa il Presidente della Repubblica, lo sai? Esatto, perché c'è qualcuno che... Sì, che ti rompe i coglioni, no? Abbassa un po', tanti di storia a Zanzara. Sì, pronto. Sì, suona la Zanzara, di no? Scusa, c'era la sveglia che mi suonava perché ho messo il pane nel forno, ho fatto il pane e mi avete interrotto tutto. Adesso ti lasciamo. Maurizio, scusami un attimo, ma a parte che sei contro la caccia e mangi le tagliatelle con la faraona, che cacciagione. La faraona mia moglie le alleva dentro. Ho capito, amico mio, però... È un cazzo. Però, perché non inviti a Palermo allo stadio il Presidente della Repubblica che è palermitano? Fagli un invito ufficiale, venga allo stadio a vedere il Palermo. Come no, io sono felice, sono stato felice perché quando ho letto, e non è populismo, che è andato come andava prima in aereo a Palermo con l'Italia, l'avrei abbracciato. Sono contento di avere un presidente così, non perché è palermitano, perché noi abbiamo bisogno di questa gente. Di gente non come Renzi che va con l'elicottero a Courmayeur. Ma per l'amor di Dio. Ma di Mattarella che va con l'Italia, tu dici? Sicuramente. Beh, invitalo allo stadio a Palermo. Abbiamo bisogno di questa. Ma no, è dell'Inter, poi è dell'Inter. Sempre sarei onorato di averlo a Palermo in qualsiasi partita. È tifoso dell'Inter, però è tifoso dell'Inter. Non è vero, è tifoso del Palermo. Ma no, è dell'Inter, ti dico. Ma ti è dico. Del Palermo. Ma ti dico che è dell'Inter, cazzo. Chiedilo a lui. Comunque, invitalo ufficialmente. Invitalo a Barbera. Beh, senti una cosa, un'altra cosa. Per me mica ci puoi lasciare così all'improvviso, Devo finire le tagliatelle. Ma che le tagliatelle? Sei contro la caccia, non puoi cucinare le tagliatelle. Allora, mi sono fatto nemico di tutti i cacciatori d'Italia. Quello sicuro. Ma io, quello mio figlio, sicuro. Mia moglie, i miei figli, non amiamo la caccia, amiamo tutti gli animali. Ma veramente tutti gli animali. Vabbè, ho capito, che devi fare? C'è pure la caccia. Ho capito. Comunque Marotta ha detto... Abolirei i cacciatori, mi dispiace. Ma ho capito. Marotta ha detto che Lotito è un personaggio violento. No, pericoloso. Un'opinione di Marotta. Marotta ha lavorato con me 12 anni, è un bravissimo ragazzo. Ma Lotito l'ha pure attaccato. È molestato dai suoi capi. È molestato dai suoi capi? Influenzato dai suoi capi. Dice che non pensa quello che dice. Lo dice perché gli conviene. Perché Marotta Lo dice perché gli conviene. Un'ultima cosa, Maurizio, che è questa. Ma dalle tue parti è successo un fatto clamoroso che è stato al centro dell'attenzione, dell'attualità nelle ultime settimane. Cioè, quella storia del benzinaio che ha sparato al rapinatore. Non so se l'hai letto da qualche parte. Ma dalle mie parti dove? No, in Veneto, vicino Vicenza. In Veneto. Un benzinaio che ha sparato a un rapinatore rom. Ma tu spareresti a qualcuno se ti entra dentro casa? No, io non ho un'arma e sarei incapace di sparare. E non ce l'ho proprio perché non sarei capace di sparare. Se uno mi vede con in mano un'arma, mi ammazza. Per cui è meglio che mi veda a mani vuote. È meglio che ti veda a mani vuote. Dunque, sei contrario a farsi giustizia da soli? Cioè non bisogna... Sono contrario a tutte le armi. Però se uno si deve difendere, non è questione di fare di sì. La legittima difesa esiste. Sì. Se uno viene per ammazzarmi, io cerco di difendermi. Hai fatto pace con Dybala? Col tuo giocatore più forte, o no? Ma io non ho mai litigato con Dybala. Non voglio trattare con i loro procuratori. Tratterà un'agenzia per me specializzata. Un'agenzia specializzata con te? Cioè, no, non vuoi parlare con i procuratori? No, un'agenzia specializzata da parte tua, per tuo conto, tratterà con i procuratori, con tutto, ma l'ho già detto. Già, ma perché? Che vogliono questi qua? Che vogliono? Soldi? Quando vedono la gallina delle uova d'oro, cercano di prendersela, di fare promesse, di fare cose. Ma è una storia ricorrente, insomma, specialmente con i procuratori sudamericani. Ma il ragazzo che c'ha? Il ragazzo è influenzato da questa cosa? Il ragazzo da 21 anni, per cui è una cosa. Si è montato la testa. Si è montato un po'. No, non si è montato la testa. Però vede il grano davanti, vede davanti però, il grano. Sicuramente, cioè, vediamo quale. Io ho avuto Pastore, ho avuto Cavani, ho avuto giocatori di questo. Cioè, roba, il problema sono i sudamericani, diciamo la verità. No, non è solo sudamericani, hanno un'organizzazione diversa. Pensate che in Argentina, in Sud America, un privato può essere proprietario del giocatore, è schiavismo. È schiavismo addirittura, sì, schiavismo. Ma pure lui è proprietario, tu sei il proprietario del cartellino, no? Ma chi è? Tua moglie, chi è? Tua moglie? Mio figlio. Tuo figlio che urla. Ma scusa, ma chi è il proprietario del cartellino di questo giocatore? Tu? Sì. Sei tu il proprietario, no? Sì, no, il cartellino è tesserato per il Palermo. Appunto. Fino a fine contratto, sicuramente, però voglio dire, ma sono le storie. Ma quanto sempre, vale? Cui... Quanto vale questo? No, non lo so in questo momento cosa possa valere. 50 vale? Può darsi anche di più, dipende da quello che farà. Va bene, ciao caro, buona serata. Ciao. Come siete pazzeschi, Giuseppe, sai che sono innamorato di te? Tra GR, borsa e pubblicità qui non si parla mai, questa trasmissione è massacrata. Buona zanzara a tutti. Allora, devi sapere, Parenzo, che il New York Times ha messo alla berlina il nostro amico Di Battista, Alessandro Di Battista. L'ho visto, beh, grande gioia stamattina. Allora, non i giornali italiani venduti, i giornalisti italiani prezzolati, ma il New York Times. Adesso avranno qualcosa da ridire gli amici grillini anche sul New York Times, perché una volta Di Battista pronunciò questa frase, sentiamo. Nigeria, vai, Wikipedia. 60% del territorio in mano ai fondamentalisti islamici di Boko Haram. 60% del territorio. Nella restante parte, Ebola. È un paese tranquillo, non c'è nessun problema. Cioè, questo è. Una delle più grandi bufale dell'anno, caro Parenzo, una delle più grandi bufale dell'anno, pronunciata non da i politici tradizionali, ma da un politico di nuovo conio, dal politico grillino per eccellenza, Alessandro Di Battista. Mica una novità. Dal mica New York novità. Times, al di là del fatto che sia vero o no, se ne dicono tante di boiate, però insomma. Andrea da Roma, vai Andrea. Andrea, dimmi, dai. Pronto, ciao Giuseppe. Dimmi. Giuseppe. Guarda, io volevo parlare del sondaggio di venerdì, quello sull'intimità. Ecco, per me è una grandissima cazzata. Cioè, cosa è una cazzata? Scusa, spiegami. Sì, è una grandissima cazzata perché le scoregge sono la prova del non tanto di paraffina della relazione di una coppia. Cioè? In poche parole, se non sbaglio, il sondaggio... Non è che sia il sondaggio, sono le grandi inchieste che... della Zanzara, è diversa la cosa, non c'è un sondaggio, cioè i sondaggi sono una cosa seria. Comunque vabbè, allora? Vabbè, in sintesi, in poche parole, guarda, più che ridurre l'ero su tutto, approfondisce l'intimità. Cioè, non ho capito, a te ti fa arrapare quando una se la tua fidanzata o tua moglie? No, non intendo quello. E che cosa intendo allora? Il fatto che non è vero che una volta che sei arrivato a scorreggiare con la tua partner è finita la storia, è vero il contrario, che forse sei riuscito a superare uno stadio in cui dei difetti estetici puoi anche sorvolarci e quindi in poche parole ben venga il peto. Cioè non ho capito, ben venga il peto nei rapporti di coppia. Perché esatto. Significa che si è più intimi, che si è veramente uniti, che insomma c'è amore vero, giusto? Esattamente, al di là di tutto. In poche parole ti prendi il capito Parenzo? Hai capito o no? Esatto, ho capito, ma mi confermi che chiamano una serie di maniaci e di puzzolenti, è una roba schifosa, cioè me lo confermi, ma non è normale questa gente qua, cioè non puoi farmi passare per normale questo. Vabbè, ma scusa, ma che Andrea sta sostenendo una cosa che anche la sua, come dire, la sua realtà, cioè la sua ragionevolezza, cioè sta dicendo che più si scoreggia all'interno di una coppia, più la cosa è aperta anche alle puzze, alle scoregge. Ma invece più più la cosa è va verso la fine, la morte, perché se tu non ti tieni un po' su, come non lo faresti se vuoi affrontarlo, non dico seriamente, ma da scienziato quale cioè sono? Tu dici che più scorreggi meno beh, poi alla fine scusami Giuseppe, al primo appuntamento io non, anche al secondo non penso che tutti i presenti siano piacere, sono Giuseppe Cruciari, non penso, ma che no? C'è, non noi credo. Stiamo parlando infatti non del primo secondo appuntamento, allora questo dimostra Andrea che però, quando hai fatto la prima scorreggia con tua moglie o con la tua compagna, scusa, questa è la domanda, la compagna chiaro. La prima io penso sia arrivata dopo diversi mesi, comunque come diversi mesi, scusa Andrea, diversi vabbè, mesi non è che l'ho petato dopo due settimane che ci frequentavamo, dopo diversi mesi, una volta c'era più confidenza, c'era meno timore a scoprire parti di sé, l'ho mollata. L'hai mollata, via, così. E quando è che affronterete il fatto che ad esempio lei nel suo bagno defeca con la porta aperta? Fate anche questo allora, no? Direi che è capitato. Cioè è capitato che lei sta in bagno con la porta aperta e caga? No, tendenzialmente si chiude, quindi, però... Non credo che avrebbe problemi anche a lasciarla aperta con me in casa, che potrei passare. Scusami Andrea, ma voi fate sesso anche estremo? No. Non fate. E poi proprio per questo intendo. Sì. Ecco, guarda, un'altra cosa che fa capire un po' come questo sondaggio, diciamo, sia equivoco, nel senso, una donna che comunque con la quale ci fai certe cose sotto le coperte, sì, le nefandezze peggiori, ecco, ora ti dovresti vergognare di un peto? Ma no, ma che c'entra? Ma non ho detto questo, ho detto che però a mio parere quando arrivi a quel punto poi è tutto finito, cioè non c'è manco più il gusto del sesso, capito? Questa è il mio, cioè la mia esperienza è questa, quando arrivi bravo, a fare quelle bravo, robe bravo. Lì poi per carità, se le fai va benissimo, però se le fai sei arrivato a un punto di non ritorno, mai non... diciamo la verità Andrea, quando cominci a scorreggiare davanti alla tua compagna eccetera, non ci scopi più con questa, diciamola tutta, dai su, ma io, non è vero, ma io lo so che tu non lo fai più, io lo so ma che non tu... è vero, ma che cosa stai dicendo? Lo so che tu non la fai. Guarda, sotto le coperte l'attività è molto intensa. Ma che e anche, dal, anche, dal punto, anche dal punto di vista delle scorreggie. Mi hai sentito parlare del forno olandese? Del? Forno olandese? No, spiegami, che è sto forno olandese? Il forno olandese. Il forno olandese. Il forno olandese. Infatti cioè, ho chiamato per farvi a parte di questo segreto. Il forno olandese è una tecnica, in poche parole, tu la molli sotto le scorreggie, la lasci covare qualche secondo, dopodiché le alzi ed esce quello sauvage. Che esce lo sauvage, Parenzo, esce lo sauvage, mamma mia, è mamma stupendo mia. Esce lo sauvage, come ha detto prima Adinolfi là, che cos'è che esce il vento leggero di non so che cosa, beh questo è stupendo, no un momento, quello cioè, è aspetta, ripetiamo la tecnica olandese che ha detto prima Andrea Darò, facciamola ripetere bene, spieghiamola bene nei dettagli Andrea, com'è forno che si chiama il forno, ma perché olandese forno poi scusa olandese. Perché olandese, te lo sei chiesto? Non so, probabilmente ha a che fare col metodo di cottura che francamente non conosco. Vabbè, allora spieghiamo bene il forno olandese. Tutti fermi, tutti attenti, taxi, camion, gente a casa, migliaia, decine di migliaia. Rullo di tamburi, grazie. Rullo di tamburi. Allora, in poche parole, il forno olandese consiste nel rilasciare un'aria, una flatulenza sotto le coperte, sì? Lasciarla covare, fermentare. Fase 1, aspetta, fase 1, fare la flatulenza sotto le coperte. Le coperte come devono essere? Scusa, le coperte devono essere belle sì, strette. Sì. Sì, belle strette. Fase 2, rilasciare un paio di secondi a lievitare sotto le coperte, le aree, sotto le coperte. Poi sollevare neanche troppo delicatamente per far fioruscire il risultato. Sollevare con forza, fase 3, sollevare con forza a quel punto. Ma è discrezionale. Discrezionale, va bene. Sollevare e agitare eventualmente. E agitare le lenzuola, diciamo, le coperte, agitare un po'. A quel punto che succede? A quel punto, se nei tuoi intestini fermentano i resti di un pasto vegetariano, ad esempio, avrai un risultato molto, molto, molto più nauseabondo. Poi, tante volte può essere anche che capita che non è solo aria, quindi non si sente niente, fatto una figuraccia, non è uscito. Comunque, capito? Io la sperimenterei se fossi te. Parenzo, provala! Prova il forno olandese, David, prova il forno. Io ho capito che questa persona qui, quando torna a casa stasera, si deve vergognare, perché voglio dire, ma se io fossi un parente, ma la madre, il padre, la sorella, la fidanzata, che sente in radio il marito che parla di forno olandese? E quello anormale sono io poi. Ma mica l'ho inventato io il nome, David. il forno olandese. Fai passare tutto, Cruciani, come se poi la normale fossi io, capito? Beh, era questa cosa. Andiamo... Io vorrei chiedere, ad esempio, anche al mio amico, al nostro amico presidente Squinzi, se è... se tra i due quello anormale sono beh, io questo potrebbe anche dire la sua su questo, se il presidente Squinzi guarda, anche lui a casa sua con la moglie fa, io pure tenderei a escluderlo, diciamo. Io dubito anche che sia possibile porre la domanda, però magari mi sbaglio io che sono addirittura dai. Vai Angelo, Vibo Valencia, vai Angelo. Pronto? Dimmi caro, dimmi. Io volevo dire soltanto, cioè volevo spiegare un attimo, perché poco fa c'è stato uno che diceva praticamente che la scorreggia, puoi far spiegare la filologia. Io a questo punto, cioè a questo punto inaugurerei anche la scorreggia in diretta, Parenzo. Forse sarebbe il caso di... Strano che non sia già accaduto. Io a questo punto chiamerei all'appello qualcuno per farla in diretta, direi. A questo punto... No, prendi il pezzo del film con Bombolo, quello dove c'è Bombolo. E come no? L'abbiamo già preso una volta, adesso lo rimettiamo. No, quell'altro, no, quello dove si chiama ristorante sì. cinese. Sì, sì, la... Angelo, Vibo Valencia, allora, vai Angelo, dimmi. Allora, volevo dire che non serve a niente spruzzarla con forza, diciamo, l'aria. In realtà il problema è dipende praticamente da dove sono dislocato, per usare un termine, dislocato. Ma tu sei un tecnico, in che senso sei un tecnico? Ti faccio il medico praticamente. Ah, fai il medico, quindi, ottimo. Sono un medico, quindi di conseguenza intanto dipende da cosa si mangia, cioè più si mangiano vegetali più si producono gas e quindi di conseguenza più si scorreggia. Quindi tendenzialmente se uno non vuole scorreggere certo. dovrebbe mangiare. C'è anche carne. L'ISIS alle porte di Roma, direi. C'è anche l'ISIS alle porte di Roma. Però va bene, ottimo. Potrebbe ma non parliamo di bombe. Arma. Parliamo di un altro tipo di bombe, caro Parenzo. Parliamo di un altro tipo di missili, molto più concreti. Beh, queste potrebbero dissuadere il signor Califfo a sbarcare qui, visto che è un paese di petomani, mi pare. Vabbè, allora Angelo, che è un tecnico, un medico, sta dicendo a quelle che puzzano e quelle che non puzzano, giusto? Allora, per non farla puzzare, praticamente, bisogna emettere il gas evitando che il pacchetto fecale si trovi localizzato a livello dell'ampolla rettale, cioè in pratica non deve, le feci non devono stare alla fine, perché se stanno alla fine, come passa l'aria, si porta via tutto il profumo, la fragranza, sì, e quindi sì. puzza. Invece se le feci sono localizzate più in alto passa soltanto il gas e non puzza. Vabbè, ma è solo questione di fortuna allora, cioè non è no una... basta andare prima insomma a fare via come discorso. Comunque... cioè, come puoi evitare che puzzino? Sua spiega, ma poi adesso abbiamo un Oscar. Vai in bagno prima, dopodiché puoi cacciare tutti i gas che vuoi perché non dovrebbero puzzare. Poi dipende molto dalla situazione. Per esempio, i maschi sono più predisposti delle donne a produrre gas perché proprio hanno un problema di digestione dei vegetali. Ma lei ha fatto una tesi di laurea su questo, mi no, pare. Quale tesi di laurea? Sono informato perché continuamente ho persone che vengono in ambulatorio e mi dicono: dottore, c'ho sto problema. Basta, io infatti spiego. Basta prendere il carbone, no? Mi hanno detto, mi hanno spiegato. Non funziona, il carbone non funziona sempre, qualche volta funziona ma altre volte non funziona. Vabbè, allora, che non funzionano adesso abbiamo un ospite, però caro come ti chiami, Angelo, ti conservo molto volentieri per i prossimi giorni, parere di Angelo di Vibo Valencia, come farle, come non farle, come evitare la puzza, come eccetera eccetera, rapporti di coppia, consigli eccetera. Angelo, medico da Vibo Valencia. Alle porte Mario, come stai Marione? Lo dicevamo da sempre che sarebbero arrivati. Beh. E adesso li abbiamo alle porte di casa. Oh, ma mi pare che di scorgere nelle tue parole una quasi sì. non so che di contentezza contentezza no, però beh, diciamo, quando si va in guerra Mario, l'equilibrio e la tranquillità di chi dice ormai siamo alla guerra. Ma quando si sente l'odore della l'Occidente tardivamente l'Occidente e l'Europa vile finalmente ecco. duole pensare che ci sono voluti gli attentati di Parigi eccetera. Di Copenaghen per svegliare questi però idioti, diciamo la verità, soprattutto del nord Europa idioti, certo. Però diciamo la verità Marione, quando si sente l'odore della battaglia, lo sferragliare, no, della tu un po' godi diciamo che c'è rimpianto che non ci sia più cioè non ci sia a disposizione del nostro paese una legion. Una legion, certo, una legion, una legion, ecco, certo, se noi pensiamo, se noi pensiamo alla situazione veramente vergognosa di quel cimitero italiano abbandonato persino da quella persona straordinaria che per 40 anni lo ha custodito, lo ha difeso, se n'è andato pure lui, se ne sono andati quelli dell'ambasciata, è praticamente una fuga dell'Occidente dalla Libia. Quelli che sono andati via sono dei conigli secondo te? No, io non ho detto questo, dico che l'Occidente in fuga, anche l'Italia. Se dovessi titolare, forse io il direttore di un giornale, direi l'Occidente in fuga. Però scusami Mario, non abbiamo più una legion, se fosse possibile, partiresti il lancio in ma resta. Io dico che questi quattro smandrappati dell'ISIS, si vede benissimo che andrebbero bombardati subito. Un esercito serio come quello del presidente egiziano gli sta facendo un culo mandolino. Certo. E si vede anche tutti questi stronzi, volendo usare una terminologia molto delicata. Che nel nostro paese si opponevano quando dovevamo comprare degli aerei da combattimento. Sì. Si vogliono rendere conto che gli aerei da combattimento servono. Servono. Come non servono? Una donna che comunque con la quale ci fai certe cose sotto le coperte, le nefandezze peggiori, ora ti dovresti vergognare di un peto? Questo non credo. In collegamento da Bruxelles è con noi Mario Borghezio, europarlamentare della Lega Nord. Caro Parenzo, certo, qui da questa prospettiva emerge direi vergognoso il comportamento di un paese che non riesce a far rispettare nemmeno la sua guardia costiera, se è vero com'è. Beh, vero, è una cosa incredibile quella. Che abbiamo dovuto restituire mano militari di fronte alle minacce dei delinquenti scafisti. Persino il natante usato per fare il trasporto. Ma tu che faresti davanti agli scafisti? Cioè, spareresti agli scafisti e spareresti subito? Ma io penso che il diritto internazionale lo preveda, sono atti di pirateria. Cioè uno scafista puntate le armi a sparare, dai. Il grottesco della situazione è questo: i nostri coraggiosi militari che vanno a fare azioni antipirateria sono processati come i due marò in India. E in cambio non siamo in grado di difendere quelli che vanno persino a soccorrere gli immigrati. Io dico una cosa, prima di parlare di intervento in Libia, bloccare gli sbarchi, perché è indecente. Ho capito, ma scusami un attimo, Mario, non riesca, Mario, l'Europa non blocchino gli sbarchi dalla allora Libia. Bisogna lasciare la gente in mare? Bisogna esercitare le attività umanitarie senza introdurre questi barconi dove li portiamo nel sti barconi? Nel nostro territorio soccorrerli in mare e rispedirli ai loro delinquenti mittenti. Cioè non bisogna portarli sulle coste italiane. Non bisogna finanziare E se questi muoiono affogati? Beh, questi non muoiono affogati se li si rifornisce. È chiaro che se il natante che è ritornato guidato dai due galantuomini scafisti fosse stato lasciato con gli occupanti, sarebbe ritornato alla base. Beh, se questi poi affogano, bastava riaccompagnarli verso le acque territoriali. Cioè, questi vanno intercettati e riportati nelle acque di provenienza. L'Europa deve cambiare registro, deve cambiare completamente le regole di pattugliamento, istituire un vero pattugliamento che impedisca l'entrata di questi scafisti, di questi delinquenti. Con l'ISIS che dobbiamo fare? Bombardare subito a tappeto? Ma io dico questo, che ha ragione Salvini quando dice che prima l'interesse del nostro paese è prima di tutto evitare questo esodo. Si parla di 200.000 persone che dalla Libia possono venire. Non era meglio che Gheddafi, Mario? La prima cosa, ma questo è evidente, che Gheddafi era un grande figlio di puttana, però era il nostro figlio di puttana. e quindi collaborava con le nostre autorità e sicuramente con accordi con Gheddafi, quelli che il nostro governo aveva era riuscito faticosamente a comporre, si era in sostanza quasi minimizzati gli sbarchi. Però io ti dico una cosa, sai Parenzo, una cosa incredibile che succede, che Mario Borghezio... Voglio capire questo, siccome sto andando adesso a Lampedusa, Borghezio, sto imbarcandomi per Palermo e poi... Ma io la invidio perché è molto interessante vedere. Vabbè, allora... Ma cosa faresti lì a Lampedusa? Ma che deve fare? Ma già detto, dai, su. Io a Lampedusa non pagherei più le tasse allo Stato italiano perché i lampedusani sono stati abbandonati. È una situazione vergognosa e... Proponi l'evasione fiscale per i lampedusani? No, propongo una protesta fiscale dignitosa, seria, mettendo queste somme a disposizione delle autorità, del prefetto, di chi diavolo sia, fin tanto che l'Italia non abbia bloccato gli sbarchi. Però scusami, Mario, lo sai che l'Italia deve sapere che tu sei sotto processo per aver detto che i Rom rubano. No, io ho detto scherzosamente. Vabbè, ma questo lo chiariremo poi. Estremamente scherzosa, ho detto, mentre noi siamo qui a chiacchierare, magari quelli rubano, magari questi rubano. E devo dire allora, che siamo un paese, cioè ce la prendiamo con quelli dell'ISIS o con quelli che massacrano quelli che fanno le vignette, e poi nel nostro paese si viene addirittura rinviati a giudizio per due battute scherzose. L'altro giorno, un gruppo di 50 rom in un ristorante in Veneto non hanno pagato un conto da 2.800 euro e sono scappati in auto. Vedete questi comportamenti? Sono sotto gli occhi di tutti. Sono tipici dei Rom, diciamo la verità. Sono sotto gli occhi di tutti e sicuramente in alcuni casi, pensiamo per esempio ai furti del rame, che sono una cosa particolarmente vergognosa quando vengono effettuati ai danni delle ferrovie, con rischi per la sicurezza dei cittadini o addirittura le incidenti. Vabbè, allora? Con dispregio. E vengono tollerati e la colpa secondo me non è dei Rom, che hanno visto che questo è un paese di merda nel quale si può fare quello che si vuole, dove non esiste il principio di legalità. Loro si comportano, diciamo la verità, un paese di merda, diciamola tutta, caro. Da un punto di vista del rispetto del principio di legalità, certamente. Un paese di merda, diciamolo chiaro e forte. Ci stiamo comportando come se fossimo un paese di merda. Va bene, ciao. Quindi, Mario, a presto. Ciao. Arrivederci. Ciao. Alberto, Vicenza, vai! Buonasera, signor Cruciani, sono Alberto di Vicenza. No, la chiamavo in merito all'intervento che fa, gli interventi che ha fatto la signora Adinolfi, il dottore Adinolfi in questi giorni. Sì, bella, vai, dimmi. In merito alla prostituzione, vorrei far notare alla signora Adinolfi e a tutte le persone che la pensano come lui, che esistono lavori ben peggio, ben più naturali che fare la prostituta, legalizzati, e che tutti poi fanno senza andare a fare fuori storie di principio, come invece la signora Adinolfi molto spesso ci tiene a far vedere, insomma, a dichiarare. Cioè, secondo lei, per esempio, è naturale come persona lavori in fabbrica, ad esempio? Cioè che lavori tutte le ore in fabbrica, faccio lo stesso pezzo per 1000, 2000, 3000 volte. Vabbè, ho capito, sono cose diverse, però Alberto, che c'entra? Tu dici che è un lavoro più naturale la prostituta piuttosto che un lavoro al tornio, diciamo, no? Certamente, cioè, mi pare che alla fine si diano dei principi su quello che una persona deve fare, non deve fare, che si basano su principi morali innanzitutto, e quelli vabbè. Ho capito tutto. Ma anche senza ragionare su discorsi che secondo me sono molto più gravi, cioè che la gente pensa solo a questi lavori qua perché ha appunto questi preconcetti morali, invece non vede tutto quello che ci sta intorno. Purtroppo gente come Adinolfi passa troppo tempo a guardare i moralismi e non guardare quello che invece succede intorno a lui, al mondo che c'è intorno. Ho capito, ciao. Mario, Roma. Ciao, buonasera. No, io volevo rilanciare lo spunto che aveva dato il ragazzo disabile, che secondo me era una figata, nel senso molto probabilmente anche quelli contro il discorso della prostituzione saranno d'accordo col dire che bisogna dare gli assistenti sessuali ai disabili e tutto. E lui diceva: se ne ho diritto io, perché non posso fare sesso in altra maniera, dato che siamo tutti uguali, perché non ci hanno diritto anche gli altri, anche i normali? Perché un vecchietto o uno sfigato che non riesce ad avere una vita sociale, una Beh, vita... adesso non possiamo mica arrivare al paradosso che bisogna pagare che lo Stato paghi le prostitute per gli sfigati o per i brutti o non so per chi altro. No, non è che già per me per i disabili, per i disabili si può discutere, diciamo, perché c'è tutta una questione che riguarda il sesso e i disabili, però insomma, dai. No, però per il principio che si può fare anche moralmente, non dico che li devi pagare, però non è più così assurdo, così anormale, così bestiale che ci sia la prostituzione legale normale che viene utilizzata anche dai normodotati, se va bene l'assistente sessuale. Non dico che la devi pagare, ma a livello di principio, a livello morale. Qui non siamo a livello di principio. Una cosa sono i disabili, dunque c'è tutta una questione. Una cosa sono gli altri, che non è che uno può pagare il sesso semplicemente perché uno è sfigato. Cioè, uno c'ha i soldi, se lo paga, altrimenti no, ragazzi, non si può fare tutto, dai. Elisis. Servi di Roma fuori, senza dubbi neri pensamenti, Padania bella e libera. San Vivarin. Amici dell'Isis che ci ascoltano, grazie anche a Radio 24 che ci ha fatto una pubblicità della miseria con la Zanzara, Parenzo e compagni. Beh, sono lì, sono pronti ad arrivare qua, sono a sud di Roma, manca pochissimo, arrivano qua. Ma dove arrivano, che non vi si filano di pezza quelli dell'Isis? Hanno altre cose a cui pensare, non Radio Padania. Chiaramente non passeranno dalla sede di Radio 24 perché lì ci sono i guardiani, sì, e c'è la security fuori, non ti puoi avvicinare, non li puoi fare neanche la cacca sullo zerbino come voleva fare Sammy Varin, ci sono le guardie armate che ti dicono via via, niente cacca sullo zerbino qua, e via via Sammy, via. Cioè si scopre, Parenzo, che Sammy Varin voleva fare la cacca sullo zerbino qui a Radio 24. Io raramente ho conosciuto uno più coglione di questo, guarda, te lo dico proprio con un linguaggio semplice, raramente ho conosciuto uno più coglione. Chiaramente quei dell'Isis appena arrivano qui in Lombardia vengono a trovarci a Radio Padania, non abbiamo dubbi su questo, ringraziando Parenzo che ci vuole un mondo di bene. Padania bella e libera, guarda avanti, sali Padania, fai sentire quanto è forte la tua voce, guida il popolo nella tempesta. Pronto? Dottoressa Cancellieri? Chi parla? Buonasera, Cruciani, come va? Ma scusi, ma secondo lei, Cruciani, le sembro forse Cecchi Gori, mi dica? Io le sembro forse Cecchi Gori? Ah, beh, lei subito è partita. Questa cosa, guardi, io sono imbufalita, dire imbufalita. Ah, ma per la battuta di Panariello, quella là. Guardi, nessuno si è mai permesso di dirmi Cecchi Gori, è vergognoso, è scandaloso, è inammissibile. No, ma ho capito, d'accordo, ma perché è così offensivo essere paragonato a Cecchi Gori? Io capisco, lei è una donna, però comunque. No, perché si figuri, è un complimento tipico di Sanremo, ma stiamo scherzando, è una caduta di stile che la Rai non doveva permettersi. Cecchi Gori! Ma ho capito, ma è stata paragonata a Cecchi Gori, mica! Cecchi Gori, guardi che Taglio Argento gli promosse addirittura un film da dolore! Vabbè, ho capito, ma ha protestato con la Rai, ha fatto qualche casino, che ha fatto? Ma che ha protestato? Nessuno che mi avesse difeso, nessuno che avesse preso le distanze, e poi è come se qualcuno la paragonasse a Parenzo, Cruciani. Beh, adesso non è esattamente la stessa cosa, cara. Sì, è peggio, è molto peggio, ha ragione lei. E poi c'è chi cosa, ti fa viola, io invece a Magica Roma. Ma che c'entra questo adesso? Com'è se non c'entra, certo che c'entra. Ma questo non c'entra. Ma scusi, Parariello, come lo giudica lei? Un po' sessista, di quelli, no? Guardi, posso dirle una cosa? Mi dica. La donna procace. piace la donna carnosa, sì, piace al maschio italiano. Cos'è che ho io di meno rispetto alla Boschi, alla Moretti, alla Maria? Insomma, e mi viene a parlare proprio lei che insomma ama queste donne mature, queste donne sì, d'accordo, però no, adesso non arrivo, però adesso non arrivo. Poi mi parla di tripletta. Si calmi. Mi vengono le scalmare. Si calmi. Le scalmare, guardi, vergognoso. C'è chi godi, a chi? Vabbè, a chi? Niente, vabbè. A chi c'è chi godi? Arrivederci, è impazzito. Arrivederci. È scatenatissima. Voglio sentire ancora Rita da Lodi. Rita. Ciao, dimmi cara, dimmi. Ma niente, io volevo dirti semplicemente una cosa riguardo all'intimità e al momento. Dimmi. Allora, io ho 53 anni, per cui non sono né una bambina né una tutta M. Vai. Niente, sono cose che avvengono nella normalità, nel... Cioè, tu una guida, sei fidanzata, sei sposata, che sei? Io sono sposata, ho 4 figli. Sei sposata, ho 4 figli. E con tuo marito scorreggi regolarmente in camera da letto? No, ascoltami, no. Mi è capitato ultimamente di avere un evento del genere. Cioè? La prima volta di scorreggiare, sì. Davanti a tuo marito? Sì, allora, ma hai fatto la puzza o no? No. Non l'hai fatta. E tuo marito come se si è girato verso di te? Che cosa ha detto? No, sono stata io che ho detto scusa. Vabbè, allora che ho capito. Però è una cosa normale. Beh, è normale, ti è successo una volta in 50 anni, normale. È normale, quelli che la fanno ogni giorno e se ne fottono. Tu invece mi sembra che sei là trattenuta, non l'hai mai fatto, è scappato una volta. Vabbè, cara Rita, va, ti abbraccio. Sei rimasta male, lo so, di questa cosa con tuo marito. Hai scorreggiato davanti a tuo marito e gli hai chiesto scusa. E vabbè, ho capito. Parenzo sarà d'accordo con te, sarà felice per te. Ci sentiamo domani alle 18:30. Ciao! Scusami Giuseppe, al primo appuntamento, io non, anche al secondo, non penso che tutti i presenti siano piacere. Sono Giuseppe Cruciari. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza. Lo so, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Ti prego. Radio 24. La passione si sente.